mattino. Ascolta su Radio 24, Alino. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 9 e quasi 10 minuti. Ci siamo in diretta anche oggi fino alle 11. Siete con noi, con la nostra redazione, da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, il nostro Alpino in regia e Leonardo Lentopede che arriverà con calma. Cari amici, oggi abbiamo tanti temi da affrontare in questa puntata, tanti argomenti. Voi chiamateci all'800240024. Vai Alpino, vai! Enthusiasm about the future. Oggi tra l'altro ero un po' confuso perché ho visto il titolo del giornale della Gazzetta dello Sport insieme. Il giornale c'ha Conte come schettino e poi sulla Gazzetta ho visto Conte stop. Ho detto questo Conte o questi Conte, insomma, hanno passato una giornata un po' difficile. Vabbè, ero un po' confuso. 9-10 minuti. Io vorrò nel corso di questa puntata stimolarvi a chiamarci sul tema ancora dei figli, perché io anche oggi sui giornali ho letto tutta una serie di commenti di persone, professori, sociologi, commentatori, giornalisti, tutti che hanno la ricetta pronta per spiegare perché in Italia non si fanno più figli. Mi ha molto colpito. Ieri ricordate che il sociologo De Rita ha detto non si fanno più figli perché siamo narcisisti, siamo egoisti, pensiamo all'io e non al noi. Una teoria che Michele Serra oggi sulla Maca un po' sposa, dicendo che il primo killer della natalità è il benessere, perché la società dei consumi ha sviluppato tipi umani, cioè noi, piuttosto gaudenti, abituati a star bene, non troppo avvezzi alla fatica, al sacrificio e allevare figli, che è una magnifica esperienza, è faticoso, distrae da sé. Quindi Michele Serra dice, insomma, siamo effettivamente un po' narcisisti, siamo egoisti. Il professor Giampiero Della Zuanna, che è uno stimato demografo, dice che in un'intervista a Repubblica non si fanno figli perché un figlio è un evento così enfatizzato che lo si mette al mondo solo in condizioni ottimali, basta che qualcosa non vada bene e allora non si fanno figli. Diamo troppo valore al mettere al mondo un figlio e dunque ci costa troppo e non lo facciamo. Però lui poi dice che ci vorrebbero asili nido gratis. Gli asili nido gratis non erano gratis da gennaio, ma questi congedi parentali, aiuti di welfare come fanno in Germania. Massimo Gandolfini sulla Verità dice che anche un problema legato all'applicazione della legge sull'aborto, non l'applichiamo bene, non diamo fondi per sostenere chi vuole fare figli. Insomma, ognuno ha la sua teoria. Allora ditecelo voi perché non fate figli. 800 24 00 24, eccoci, dai, e così voglio sapere che cosa ne pensate. Io però oggi voglio partire da una prima ospite che è venuta a trovarci in studio. Vogliamo parlare di femminicidio. Voi ricorderete due giorni fa quando abbiamo ospitato Carmelo Calì, che sta con la moglie crescendo i tre figli della cugina, la cugina Marianna Manduca, che è stata uccisa nel 2007 a Catania, e abbiamo raccontato di come Carmelo Calì abbia ottenuto un risarcimento in primo grado di 259.000 euro. Perché? Perché questa donna aveva fatto 12 denunce inascoltate e ora lo Stato in appello e in Cassazione forse vuole indietro quei soldi, dicendo i magistrati non potevano prevedere in realtà questa uccisione. Allora, la vicenda che raccontiamo, io ringrazio moltissimo la signora Assunta Bianco che è venuta a trovarci. Assunta, buongiorno. Buongiorno e grazie di essere qui. Lei è la sorella di Antonia. Era proprio il 13 febbraio, questo mi dispiace da un certo punto di vista questa terribile ricorrenza, era il 2012, proprio oggi sua sorella fu uccisa dall'ex compagno che è stato condannato all'ergastolo, no? In 3 gradi dei giudizi all'ergastolo, con condanna definitiva all'ergastolo. All'ergastolo. Quante denunce aveva fatto sua sorella? Antonio ha fatto tante denunce, 1, 2, 3, con integrazione, 5, 6, 7, siamo arrivati a 15 denunce. 15 denunce, ovviamente denunciando che cosa? Violenze, aggressioni? Atti persecutori, stalking, maltrattamenti, mancanza di manutenzione al loro figlio. Insomma, denunce di questo tipo. Ieri sul Quotidiano Nazionale sono uscite due pagine che io ho letto qui in trasmissione, che sono due pagine che dovrebbero dare conforto, perché secondo quello che è scritto sul Quotidiano Nazionale, nei casi di femminicidio finalmente lo Stato dovrebbe iniziare a pagare quel famoso fondo, insomma, per chi è sopravvissuto, per chi è qui, per gli eredi, per gli orfani. Voi in realtà non avete mai visto ancora un euro, no? Oggi 8 anni non abbiamo visto un euro. Anche se addirittura c'è stata una condanna a risarcire con 1.300.000 euro, che è una cifra molto importante. Esatto. Noi a oggi non abbiamo ricevuto nessuna scusa dello Stato, non ci sono venuti incontro allo Stato. Lo Stato dice, perché insomma queste denunce venivano portate a organismi dello Stato, polizia, carabinieri, forze dell'ordine. Esatto. E le denunce erano lì sopra la scrivania. Non sono state mai lette. Come mai? Voi vi siete dati una spiegazione su questo? Forse erano persone incapaci di fare il suo lavoro. Beh, però non erano una o due o tre denunce, appunto, erano diverse. Io mi ricordo un fatto una settimana prima, che Antonio è andato a denunciare in un quartiere qua vicino, al commissariato, a Milano, e le hanno detto, se lei non viene con un graffio, noi non possiamo ascoltare più, prendere nota di questa denuncia che lei vuole fare. Dopo il fatto, dopo 20 giorni, quando ci hanno chiamato, questa persona in ginocchio ci ha chiesto scusa a mio nipote Maximiliano, dicendole: scusami, non sapeva che era la gravità di questo caso. Vuol dire che loro volevano che Antonia venisse con un graffio o qualcosa, certo, per provvedere, ma era inutile. Per provare che ci fosse qualche tipo di... perché, tra l'altro, ieri giustamente si è molto raccontato che voi, la vostra famiglia, la battaglia per sua sorella... Ha spinto molto ad approvare questa legge, questo fondo di sostentamento per i parenti delle vittime. È una battaglia che vi sentite di poter dire è vinta, o è a che punto è? Vinta non è vinta, perché stiamo parlando di 2 anni fa che ancora i decreti attuativi non sono passati. Esatto. Parliamo del presidente Conte, che il giorno prima della giornata internazionale della violenza contro le donne, la domenica prima, ha detto: de domani saranno i decreti attuativi. Niente. Non è ancora successo. Non è passato, non passerà mai. Noi continuiamo la lotta, però, anche se aumentano, scendono. Non passerà mai. Beh, dice, perché non passerà mai. Tra l'altro, Assunta, sentite, parla uno splendido italiano, ma si capiscono, forse si intuiscono le origini argentine, no? Italo-argentine. C'è un po' di sfiducia, cioè, nel fatto che la politica possa davvero attuare. Esatto, io di questa politica, del governo che c'è adesso, non mi fido. Però la legge c'è, insomma, mancano i decreti attuativi, effettivamente, che sono stiamo parlando di 2 anni fa, e non ho avuto tempo di fare questi decreti attuativi? Lei conosce la storia di Carmelo Calì? Sì, no? Sì. La vicenda del risarcimento di 259.000 euro, che in primo grado è stato dato. In quel caso i magistrati, evidentemente in primo grado, sono stati ritenuti colpevoli di avere sottovalutato la vicenda. Poi in appello lo Stato richiede indietro i soldi. A voi non è mai stata neanche giudicata nessun tipo di responsabilità per queste 15 denunce? No, niente. Noi niente. Loro hanno sottovalutato una cosa che veramente sono loro responsabili. E come mai non avete mai chiesto un qualche tipo di risarcimento? Stiamo provvedendo con l'avvocato Gianluca Fontana a chiedere questi risarcimenti danni. Certo che è abbastanza incredibile dover parlare ancora di questo termine femminicidio, come le piace, è un termine adeguato? Sì e no. Femminicidio, sì, anche adesso c'è il caso di uomini che vengono aggrediti dalle donne, ci stiamo rivelando, noi donne ci stiamo rivelando nei confronti di uomini. Quindi io credo che tra 10 anni sarà anche un omicidio. Omicidio, sì, va bene, insomma, l'omicidio per gli uomini. Ma voi da questo fondo, il fondo, se e mai ci saranno i decreti attuativi, si parla di cifre che prima erano irrisorie, 7.200 euro per omicidio, che ora dovrebbero essere portate fino a 60.000 euro se mai appunto ci saranno questi decreti attuativi. Cioè, questa almeno è un qualcosa che se verrà mai applicato è un punto di in avanti, no? È un salto in avanti. Sì, però ugualmente per fare questi decreti attuativi, questa legge per essere vera, ci mettono anche dei paletti, i bastoni sulla ruota, perché dicono lo devi fare entro 2 anni della sentenza definitiva, lo devi fare se non hai proprietà, se non hai auto, quindi vuol dire o ce lo diamo a tutti, non ce lo diamo a nessuno. Cioè, perché voglio dire, questo è un aspetto importante, cosa vuol dire? Cioè, se uno subisce un omicidio di questo tipo, un femminicidio di questo tipo, ma ha una proprietà, non ha diritto... Esatto, si deve avere un valore ISEE. Dichiarazione del reddito basso vuol dire se nonni hanno, nonni se prendono cura dei nipotini, ok? Meno se questi hanno la casa al mare, la casa è proprietà, così, no, perché il reddito sale. Come dire, questo omicidio vale meno. Sì. E l'Stato, questa parte deve cambiarla, hanno tutti i diritti, diritto agli orfani del femminicidio, tutti gli orfani, maggiorenni e non maggiorenni. Su questo non c'è dubbio. Perché mio nipote, quando è successo il fatto, Massimiliano, adesso ha 31 anni, lui ha avuto che andare a lavorare per aiutare a mia mamma e crescere a suo fratellino che aveva 5 anni e a sua sorella alle 13. Florenzia aveva 13 anni. Florenzia aveva 13 anni. Adesso tre figli ha lasciato. Sì, è soltanto Gabriele che adesso ha 13 anni è figlio dell'assassino. Ah, ok. Due figli quindi da una precedente relazione. In Argentina. So che anche ho letto che Florenzia sta scrivendo un libro, è un modo anche quello, insomma, di affrontare, di attraversare il dolore, la difficoltà, no? Su questa sì, vicenda. Sì, sì, stiamo che scrivendo. All'epoca aveva 12 anni e adesso ne ha 18, sì. Quindi 30. Questo è un libro molto interessante. Parliamo della sofferenza di Antonia, la sofferenza dei figli di Antonia, compreso di Florenzia. In più in Florenza, perché Florenza che lo sta scrivendo, e a breve sarà pubblicato. Io so che Assunta però ci tiene a dare un messaggio a tutte le donne, un messaggio importante, perché uno dice, beh, 15 denunce, a questo punto come si fa a credere allo Stato, ad avere fiducia nelle istituzioni? Il messaggio qual è? Continuate a denunciare. Non tirarti indietro, non andare dopo una settimana a ritirare una denuncia, non avere paura, i tuoi ragazzi sono protetti, continuate a denunciare, sono passati 8 anni, le leggi stanno cambiando e continueranno a cambiare. Le leggi stanno cambiando, lentamente aggiungo io, molto lentamente stanno cambiando, perché effettivamente questa vicenda dei decreti attuativi che già sul Sole 24 Ore era stata affrontata tempo fa è abbastanza incredibile, no? Perché poi quando si dice la politica, che per carità discute di vicende importanti, politiche, i cambi di governo e Salvini va processato o non va processato, tutti argomenti politici importanti, è inutile negarlo. Però poi quando si va a intaccare sulla vita quotidiana dei cittadini, ripeto, non è qualunquismo, ma c'è questo scollamento della politica che fa le cose ma le fa a tre quarti, le fa quasi tutto il pezzo, manca il pezzettino finale, e se manca il pezzettino finale questa legge e questi fondi di fatto sono vuoti, sono un fondo vuoto, no? Questo è un messaggio bello assunta con cui lasciarci, quello di dire, denunciare, come fa ad avere questa forza di dirlo dopo che 15 denunce non sono servite a salvare sua sorella? Lo dico perché noi del primo momento sempre abbiamo creduto nella giustizia. Infatti giustizia per Antonia non tornerà mai più con noi, però abbiamo avuto giustizia, in 3 gradi di giudizio, sempre l'ergastolo. Vedo che cambiano le leggi e spero che continuino a cambiare. Anche qui, insomma, l'ergastolo c'è stato, mi raccontava prima di andare in onda, anche un periodo in cui incredibilmente, insomma, questa persona è uscita dal carcere e in attesa, insomma, dell'ergastolo definitivo, e mentre è uscita dal carcere ha aggredito una donna. Sì, ha aggredito la sua compagna, oltre che essere stato una testimone oculare dell'omicidio di Antonia. Quindi, voglio dire, a una compagna di una vita l'aggredì. Questa ha avuto il coraggio, visto la precedenza, andare a denunciarlo. Io, Assunta, la ringrazio. Grazie a lei. Assunta Bianco, la sorella di Antonia, ripeto, era proprio il 13 febbraio del 2012, sono passati 8 anni ormai, ma insomma non c'è il tempo che possa in qualche Sembra modo. Che fosse ieri, perché ancora il vuoto dentro c'è. Allora, rimanga qui con noi, perché intanto alle 9:25 minuti io voglio salutare un deputato, un onorevole, l'onorevole Emanuele Fiano. Eccoci, Emanuele Fiano, buongiorno. E grazie. Buongiorno a voi. Allora, Emanuele Fiano, io lo voglio salutare, lo dico sempre, è un deputato, ma anche, è anche un figlio. E questo, in questo caso va sottolineato, perché è il figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto alla Shoah, sopravvissuto ad Auschwitz, grande testimone. In tanti anni di vita, di che cosa ha voluto dire passare attraverso quell'inferno in terra. E Emanuele Fiano ha scritto un post su Facebook, sui social, dopo che è comparsa l'ennesima scritta, in questo caso davanti a un liceo di Pomezia, contro gli ebrei. Tra l'altro, Emanuele Fiano, proprio nel giorno in cui un testimone era lì per parlare ai ragazzi per il senso della memoria. Questa cosa, insomma, mi ha fatto molto. Suo padre non è mai successo una cosa del genere? No, diciamo che siamo entrati, mi sa, in una fase diversa della memoria, come testimonia anche la vicenda di Liliana Segre, costretta a circolare con una scorta per difenderla. Evidentemente qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto, e per questo anche io ho scritto quelle parole un po' dure, ma ovviamente senza voler ferire nessuno. Ma come adesso che ne parlo con voi, va capito che per noi che abbiamo bevuto alla fonte dei nostri genitori, i quali ci hanno raccontato delle violenze, delle angherie, delle irrisioni, degli insulti, degli sputi, delle botte e poi della fuga, dell'essere braccati, segnati e poi della deportazione, per noi, per me sicuramente, ogni volta che c'è una scritta di quel genere corre un brivido lungo la schiena, non perché io non abbia sentito in questi anni una straordinaria solidarietà e vicinanza, a partire tra l'altro da Alessandro Milan e da Radio 24, ma da tantissimi, e non perché per me la politica non sia stata una medicina, come dico sempre, perché io sono arrivato alla politica sentendo dentro di me una ferita che mi portavo dietro, perché i miei genitori sono stati ad un certo punto separati dagli altri italiani e hanno raccontato di questa ferita che mi è stata tramandata, e per me la vita pubblica, il partecipare a un'idea di bene pubblico, di comunità, è stata una grandissima medicina. Ogni volta che di nuovo percepisco che nell'aria, in maniera cospicua, ripetuta, giornaliera, mi trovo di fronte, certo, magari sono dei ragazzini, della gente inconsapevole, degli ignoranti, ma che qualcuno abbia bisogno per sentirsi grande o forte di tracciare col pennarello o con una bomboletta una stella di Davide e di segnalare che in quella casa c'è un ebreo. Insomma, io No, ma certo, c'è quella, in queste parole lei ha detto che c'è questa cicatrice interna, no? Che tutte le volte, sì, in qualche modo, quando c'è questa scritta, pizzica quella cicatrice. Sì. Però dicendo così, ed è un grande gesto anche di verità, di dolore pubblico, in qualche modo non si dà la stura a qualche altro imbecille di dire, beh, allora vedi, allora gli fa pure male, allora devo farlo, devo continuare. Ma guarda, alla fine il bilancio è ovviamente positivo, perché sono più le persone, le tantissime, che capiscono quello che dice, è un figlio di un sopravvissuto, o magari addirittura un sopravvissuto ancora ovviamente più vero, più forte, più duro, di quelle che pensano quello che stavi dicendo. Cioè, io penso che mi interessa in un certo senso, perché poi ce lo domandiamo poco, va bene, sono dei ragazzi, c'è uno stile di emulazione, fanno una bravata, ma perché? Allora il mio pensiero, perché alla fine quando uno mi dice è uno stile di emulazione, ma emulazione esattamente di cosa? Esatto, emulazione di chi? Cioè, uno vuole emulare un nazista, cioè mi inquieta questa cosa. Allora io penso che, questo mi sono permesso di dire, insomma, noi viviamo un periodo di grande difficoltà nell'identità delle persone. Ci sono tante persone che sono perse, è finita completamente l'epoca delle ideologie, lo dico da dirigente politico, la fiducia nei partiti è bassa, bassissima, e forse anche nei sindacati, quindi la capacità di sentirsi rappresentati non è così semplice, non sempre c'è un terreno comune dove uno dice mi identifico. Ecco, purtroppo in questi momenti della storia dove sembra di attraversare un deserto, il fatto di identificarsi dicendo che cosa non si è, segnalando quello che tu consideri altro, diverso, da escludere oltre un confine, o che non sono solo gli ebrei, sono gli ebrei in questo caso, qui ci sono i rom e i sinti, ci sono gli omosessuali, in altre parti del mondo ci sono i cristiani o gli islamici, certo, che sono perseguitati, è un segnale brutto, nel senso che per sentire che hai un'identità devi individuare che c'è un altro che non sei tu e che devi escludere, devi separare, devi mettere oltre un confine. Vuol dire che è un campanello d'allarme non per gli ebrei, per tutti, cioè che dobbiamo riacquisire insieme, dalle famiglie alle scuole e oltre, un terreno comune continuo. Forse anche quello spettacolo di visione o di battaglia che offre la politica c'entra qualcosa, cioè del far sentire che è più importante la divisione dell'unione. Sì. Io nel ringraziarti, voglio ricordare solo che una delle esperienze più incredibili della mia carriera fu proprio quando tuo padre ne dovenne a trovarci qui a Radio 24. Quella puntata ancora oggi è successo, guarda, settimana scorsa mi è stata richiesta da un liceo di Piacenza, un liceo classico al quale ovviamente è arrivato il CD con quella puntata e che verrà fatta ascoltare agli studenti, insomma. Forse no, il bello della memoria è così, che non la si può fermare in nessun modo, Emanuele. Bello, molto bello, è una bellissima cosa. E quindi intanto io ti ringrazio, Emanuele Fiano, grazie veramente per essere grazie stato qui. Come ringrazio ancora la signora Assunta che è venuta, molti ci hanno mandato tantissimi messaggi di solidarietà, di abbracci, di vicinanza, arriva anche in spagnolo un messaggio da Mariana da Roma, forse argentina come lei. Lei è italiana o sente più italiana o argentina? Più italiana, i miei erano calabresi. Calabresi, insomma, quindi siete cresciute in Argentina e poi dopo da tanti anni siete... 25 anni. Vabbè. In bocca al lupo, teniamo sotto esame questa vicenda. Molti ci dicono: ma cos'è un decreto attuativo? È un iter, cioè noi sappiamo, le leggi si fanno in Parlamento, i decreti legge, il governo poi convertiti in Parlamento, e poi ci sono tutta quella fase burocratica, passano le leggi negli uffici insomma, dei ministeri, gli uffici competenti, che devono fare questi decreti attuativi. Certo che deve essere complicatissimo scrivere un decreto attuativo. Sembra se ci vogliono sì. Due anni. Abbastanza incredibile, è la burocrazia italiana. Grazie Assunta, andiamo un attimo in pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Non tutti siamo Serra, e anche crescere due figli lo si fa facendo dei grossi sacrifici, anche solo due. Costo asilo nido pubblico a Ravenna comunale, 550 euro al mese, sono 1100 euro al mese che devo pagare tutti i mesi per aver fatto due figli. Sono totalmente d'accordo col discorso sul narcisismo, ormai i ragazzini ci sono fino a 35 anni. Fino a 35 anni due persone su tre sono ragazzini, pensano a uscire, aperitivi, amici, amiche, una scopata qua, una scopata là, ci si diverte, ovviamente i figli non li fai perché sarebbero un intralcio, però basta questo voler cercare a tutti i costi di mettere la firma sulla teoria giusta. Ci sono una serie di circostanze che insieme provocano la situazione. Oh, mi sembra il più saggio, non è che si fanno figli, non si fanno figli o si fanno pochi figli, ognuno ha delle motivazioni diverse, non è che si può mettere un cappello su tutte. Leonardo Manera, eccolo qua, buongiorno! Però buongiorno, è stato ottimista quest'ultimo ascoltatore, cioè ha detto che fino a 35 anni si è ragazzini, in sì, verità lo si è fino 40. A 65 secondo me. Fiorello oggi ha fatto un'intervista al Corriere della Sera, no a Repubblica forse, ha detto che lui si sente a casa, quasi sessantenne, la figlia dice ma sei come me, cioè disordinato, bambino, e quindi è questa teoria, fino a 60 anni no? si è ragazzini. E dopo però cosa succede a 60 anni? Che di colpo ti rendi conto che sei un vecchio. Da ragazzino a vecchio, manca la fase. Perché la maturità. Lo dici con questo disprezzo vecchio? Guarda che tu disprezzi i vecchi. No. Io sono già vecchio, ho 50 adesso ad aprile, compio 53 anni, però è da qualche anno che ormai ho accettato la mia età, non sono più ragazzino. Ho accettato la mia età. Rughe, le mie borse sotto gli occhi, la mia pelle segnata, la mia calvizie, le mie braccia cadenti, sono in disfacimento totale, sono un vecchio. Beh, lo dice con disprezzo, vedi, quando dice la parola, dillo bene, è un po' come la teoria del ciao delle donne, che dal ciao capisci se sono fidanzate o no, cioè si capisce, prova a dire. Cosa, vecchio? Vecchio, vecchio. Si nota del disprezzo. Adesso lo metterò anche sul mio campanello di casa. Leonardo Manera, vecchio. Il vecchio. Da Plinio il giovane a Leonardo il vecchio. Allora. È anche bello perché ti liberi di una serie di, così, di problematiche, di obblighi anche dovuti alla giovane età o sì, all'età così, in cui devi essere per forza attivo. No, comunque è interessante, oggi se tu avessi sfogliato i giornali o se tu anche solo avessi ascoltato l'introduzione del programma, pare che su tutti i giornali c'è un espertone a dare la sua teoria del perché non si fanno figli, e siamo narcisisti secondo De Rita, e secondo Michele Serra anche un po', e siamo figli del benessere, quindi siamo un po', pensiamo all'io e non al noi. Secondo il demografo dalla Zuanna, facciamo troppi calcoli, diamo troppa importanza a questa idea del fare i figli, e quindi cioè, lo programmiamo troppo. Hai sentito l'ascoltatore che dice devo pagare 1.000 euro al mese? Giustamente, uno si fa i suoi calcoli, mentre un tempo c'era un po' più di, non lo so, non dico... No, la civiltà contadina. Infatti la civiltà contadina. Abbiamo bisogno di braccia. A parte quello, ma poi tu sei un po' un tipo da Repubblica, in effetti. Sicuramente. Vendo Repubblica con in mezzo Playboy per non farlo vedere. Quando vado in edicola, faccio il panino imbottito. Ecco, il panino imbottito con Playboy. No, la civiltà contadina era legata al ciclo delle stagioni, quindi sì, in questo senso era più ottimista, perché sapeva che l'anno dopo, di nuovo, sì, ci sarebbero stati dei frutti. Adesso che non siamo più legati al ciclo delle stagioni, ecco, paradossalmente è subentrato più pessimismo. Perché adesso pensiamo che tutto sia finito. No, non è che pensiamo che tutto sia finito, ma siamo legati a tipi di lavori diversi dove non c'è questa stagionalità che in qualche modo è rassicurante. Ma sempre da ridire questa ma qui. No, ma guarda, mi piace per stuzzicarti un po'. Ma Michele Serra infatti dice i contadini facevano 10-15 figli e la mortalità infantile era messa nel conto, che è un po' la teoria di Dalla Zuanna, demografo, a dire cioè adesso facciamo invece, diamo un'importanza, è importante fare figli, ma cioè siamo lì a fare i calcoli, ma poi ce la faccio, ma poi di qui di là, c'è un po' meno incoscienza, sì dai, un po' meno entusiasmo. È anche vero che spontaneo. I bisogni sono molto aumentati, sì, i bisogni veri o indotti, sì, sono molti di più di quelli di prima, quindi. E poi io però insisto, c'è la questione economica, dai, cioè moltissimi giovani, cioè, non si fanno i figli a 70 anni. Si fanno i figli quando uno ne ha 30-40. Ma anche prima. E anche prima. Cioè, economicamente, trovami ragazzi che sono in grado di poter sostenere una vita economica. Però, se tu li fai presto, sì, a 14, a 14 anni, hai i nonni che ti possono aiutare molto economicamente. Hai, sì, più sì, di quando magari ma hai i nonni pensionati. Magari sono dei nonni che prendono 600 euro di pensione. Appunto. E devono. Ma è per quello che tu li devi fare prima, perché i nonni non sono ancora in pensione. pensione, lavorano, ecco, hanno più denaro da dare per foraggiare la famiglia. Quindi se fai un figlio a 14-15 anni, cioè, il nonno sta ancora lavorando, sì, ti passa lo stipendio. Esatto, quindi fate figli, spingete i vostri a 13, 13 appena 12. Sono sessualmente attivi, subito un figlio, subito. Via. Mattia, spegni la radio, anche Angelica. Fabrizio da Verona, buongiorno Fabrizio. Eccolo, buongiorno. Eccolo, voi, buongiorno. Eccolo, buongiorno. Ma infatti è la questione economica che la fa da padrona, è vero anche che sì, non vogliamo entrare nel tunnel del non dormire la notte, del fare un trasloco tutte le volte che si muove, però il primo figlio, anzi la prima figlia, 20.000 euro in 5 anni. Ecco, ma questi calcoli non so se li facevano i nostri nonni, quanto ci costa un figlio 20.000 euro, e costavano anche allora, costavano. Ma forse non c'erano gli asili nido, forse non c'erano l'esigenza di lavorare in due, perché comunque uno dice, vabbè, fai la maternità, sei pagato, però gli ultimi mesi della maternità facoltativa prendi niente. Mia moglie ovviamente ha voluto stare con la bambina, ma giustamente fino all'ultimo giorno possibile. Sì, sì, sì. No, ma infatti io devo dire, allora, le politiche poi degli stati servono. Lo stesso Giampiero Dalla Zuanna, che ha detto facciamo troppi calcoli eccetera, però dice guardate che la Germania nel 2007 aveva un tasso di natalità più basso dell'Italia di oggi, poi hanno messo 200 euro ai figli fino alla maggiore età, se uno fa un figlio, qualunque sia il reddito di questa. Poi hanno messo asili nido pubblici e gratuiti, insomma, via così, e con queste politiche nel giro di alcuni anni ci hanno surclassato come tasso. Posso dire un problema serio che riguarda i padri separati, sì, rispetto ai figli, sì, che se tu sei separato il denaro che dai alla tua compagna per il figlio non è detraibile. Quindi tu ogni mese versi un tot di denaro che assolutamente è come se tu spendessi per dei vizi tuoi, quando invece tu li dai alla madre, insomma nel mio caso, alla madre del bambino per il mantenimento del figlio, che non possono essere assolutamente detratti. Questa è anche un'altra questione. Comunque Fabrizio, grazie, rimarrei in Veneto da Francesco, da Padova, eccoci. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Io vorrei distaccarmi un po' dal pensiero comune degli altri, e vorrei dire che non è solo una questione di soldi. Siccome un figlio dura tutta la vita, sì, è questione di fiducia nel futuro. Certo, c'è la fiducia, certo, c'è anche questo. C'è molta gente che dice, ma io perché devo mettere al mondo un figlio in questo mondo, la fiducia? Vabbè, però adesso No, guarda. Ma, sì, vabbè, ma chi pensa adesso, vabbè, Francesco, francamente? Perché Francesco, lei quanti anni ha, se possiamo... Io ho un figlio che ha 40 anni e sta pensando di... Io ne ho 65. Sta pensando a 40 anni, no? Già questo fa capire. Sta pensando di poter avere un buon figlio, qualche volta è lui che dice è meglio desistere, e io qualche volta gli do anche ragione. Ma perché? Cioè, lo dice perché? Dice un brutto mondo, questa frase che si suol dire. Non dobbiamo esagerare, però economicamente di futuro è un brutto mondo sicuramente, l'Italia in genere, perché i miei amici o anch'io, quando andiamo all'estero, benché siano classificati i paesi più poveri dell'Italia, effettivamente si vede che progrediscono di più. Sì. Invece l'Italia magari è un po' più ricca, ma da 25 anni che è ferma. Non c'è fiducia nel futuro, non c'è fiducia. Mi sa che suo figlio Francesco rientra in pieno nell'analisi di Giampiero Dalla Zuanna, che dice si fanno troppi calcoli, si dà troppa anche importanza a questa idea del fare figlio, si fanno troppi calcoli, si pensa ma poi cosa sarà, e quindi l'assenza di fiducia nel futuro c'era già ai tempi di Giulio Cesare, però guarda, c'è sempre stato. Sempre si è detto, che tempi, il futuro come sarà. Accidenti, sempre. Manera, ho qualche mese meno di te, dai, accidenti, mi viene una malinconia, su, cerchiamo di tirarci su. Gabri da San Daniele, fatti una fetta di prosciutto. Ho lavorato a San Daniele due volte, in piazza e nell'auditorium. Sì, esatto. Vai, traffico. Allora, non posso perdermi la prima serata, i miei follower aspettano i miei commenti. Grazie mille. Ora posso tornare sul divano? Sì, amore. Però mi fai grattini? Un vero professionista non smette mai di esserlo. Come Fiat Professional Talento, con volume di carico fino a 8,6 metri cubi. Oggi con canone da 138 euro al mese, tantri 80, tasso leasing 3,92. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio. Info su fiatprofessional.it. Uno, nessuno, 100 Milan. La mia famiglia che viene dal contadino, erano contadini, il detto era che i figli erano una ricchezza, perché si prendevano e si mettevano a lavorare in stalla a 9 anni. Oggi chiameremo telefono azzurro, far lavorare i figli a 9 anni a mungere le vacche, no? Oggi non sono più una ricchezza, oggi sono un costo. C'era bisogno, infatti, come diceva Serra, di fare figli perché servivano braccia nel mondo contadino. Sì, effettivamente si mettevano. Anch'io lo facevo con mio padre. Anni. Una noia mortale. Sì, tu a 10 anni gli hai sfasciato la barca a vela. A 12 anni. Ecco. Puntualizziamo. Quindi anche lui era un costo. Poi sì, pagavi per ripagare i danni che avevi fatto. Allora, mio padre aveva l'hobby del fai da te, sì, sapeva riparare tutto, sperava che qualcosa si rompesse per poterlo riparare. Però era diventato un fai da te. No, non è, magari fosse stato un fai da Leonardo. Era un fai da sé, di mio padre, dove però io dovevo tenere gli attrezzi per ora. Mamma mia, passa, cioè come un aiuto. Sì, sì. Pinza, sì, martello. Io che vedevo roba il lago dalle finestre, volevo andare a fare il bagno e invece dovevo tenere il martello, la pinza, la chiave, solo per passaglia tra l'altro, perché poi mio padre non mi faceva fare niente. Era una forma di schiavitù, perché poteva tenerli lì appoggiati il martello, la pinza. Non c'è bisogno che uno ti passi il martello. No, perché magari c'era da andare a prendere, da tenere una cosa, tienimi, passami. Come si chiama tuo papà, che non ricordo? Luciano, se sei all'ascolto. Ma com'è possibile? Ma perché utilizzare questo garzone di bottega a tenere il martello? Ma lo sai, potevi appoggiare ore lì su di fianco. Tienimi il cacciavite, passami il cacciavite, passami il martello, passami la chiave del 12. Ore e ore così. Alla fine c'era almeno una ricompensa. Ma no? Che? Una paghetta. Ma assolutamente no. Che mestizia, che amarezza. Solo una volta mi ha dato la paghetta, una volta che mi ha fatto scartavetrare e poi riverniciare le persiane. Ecco, questo però è un lavoro che ho fatto io. Quindi certo, non hai detto passami la carta vetrata. No, ti ha fatto proprio lavorare. Non so se faccio in tempo a fare il... A che ora chiudiamo? Sì, tra 4 minuti, vai. Voleva tenerlo per domani. Sì, sì, sì. Allora, ne avete parlato fino adesso, fino ad ora, la notizia è che gli italiani fanno sempre meno figli. Forse perché non ci si fida dei rapporti di coppia, perché non ci sono abbastanza soldi, oppure perché occuparsi dei figli toglie tempo e spazio ad altre attività. Per esempio andare in palestra, dove eventualmente si potrebbero anche conoscere uomini o donne coi quali non fare una famiglia, non fare figli. Insomma, fare figli è un grande impegno, a volte anche una grande seccatura, bisogna dirlo. È probabilmente fare figli la scelta più dissennata che si possa fare e probabilmente anche quella più controcorrente. Io invece credo ancora che sia importante fare figli, almeno provarci è importante, può anche dare soddisfazione, insomma, a volte. Però oggi voglio dire a un ipotetico bambino che dovesse nascere nel 2020 cosa avrà dai genitori, nonostante il periodo storico non sia dei più facili. Ipotetico figlio del 2020, avrai l'amore dei tuoi genitori sempre, anche quando tu piangi perché ti è caduto un biscotto per strada. La mamma e il papà ti dicono di non mangiarlo perché appunto è caduto per terra. Tu gli spieghi che è meglio non mangiarlo perché potrebbe provocargli un'infezione intestinale. Allora il figlio ti guarda e dice: lo voglio mangiare. Tu gli spieghi che per terra potrebbe essersi contaminato con virus e batteri di ogni tipo, gli fai una piccola lezione di microbiologia, allora tuo figlio ti guarda e dice: lo voglio mangiare. Tu lo terrorizzi dicendo che spesso quando dei bambini mangiano biscotti caduti per terra subito dopo muoiono per un'epatite fulminante, allora lui ti guarda finalmente convinto e dice: lo voglio mangiare. Alla fine, per evitargli problemi, gli rubi il biscotto di mano e lo mangi tu. Lui piange, ti odia, tu hai una gastroenterite, a volte il colera. Figlio del 2020, avrai la tachipirina per tutte le volte che ti verrà la febbre, che di solito viene il venerdì sera quando il pediatra non c'è, bisogna andare a pronto soccorso. Di solito quando la mamma partorisce e si esce dall'ospedale, ai genitori viene dato un foglio di istruzione in cui c'è scritto: ricorda che a tuo figlio la febbre verrà sempre il venerdì sera quando il pediatra non c'è, fino a lunedì. Allora gli si dà la tachipirina, perché ai bambini l'antibiotico si dà solo se la febbre dura almeno da 3 giorni e supera i 38,5. E al piccolo figlio la febbre viene sempre a 38,5, perciò il genitore non sa mai cosa fare. Figlio del 2020, avrai un televisore, un tablet e molti supporti tecnologici per guardare i cartoni animati. All'inizio quelli di Peppa Pig, puntuali tutte le sere con la stessa storia, magari prima in italiano poi in inglese, perché ormai i bambini fin da piccoli devono sapere le lingue e le imparano da Peppa Pig. Così poi quando il bambino parla inglese grugnisce, dice "How do you?" E quando il bambino guarda Peppa Pig, tutta la famiglia guarda Peppa Pig. Così il papà non sa più niente di quello che succede nel mondo, ma sa tutto della vita di Susy Pecora, un'amica di Peppa Pig. Seguirà poi negli anni l'insopportabile vocina di Alvin. Aia. Poi crescerai e avrai una bicicletta. Prima il triciclo con la ruota davanti, la ruota dietro, 2 ruotine accanto alla ruota dietro per non cadere, e un casco per proteggere la testa, un giubbotto di salvataggio e dei razzi di segnalazione nel caso pedalando ti fossi allontanato un po' troppo dai genitori. In tasca al posto delle caramelle l'SOS salva la vita Beghelli, che in caso di necessità fa partire direttamente la chiamata alle teste di cuoio. Così il bambino di sicuro non si fa male, ma a 5 anni chiama lo psicologo. Poi crescerai sempre di più, diventerai adolescente, andrai per la tua strada litigando coi genitori che giudicherai degli stronzi assoluti, mentre mamma e papà ti guarderanno dal balcone mentre ti allontani e penseranno: finalmente siamo un po' liberi, speriamo che torni tardi. Ecco, sempre che, non sapendo gestire i problemi familiari, non abbiano già divorziato prima. Bravo Leo, dai, chiudiamo qui, vedi che ce l'abbiamo fatta, chiudiamo qui la prima parte di Uno Nessuno 100 Milan, ci troviamo dopo, il giornale radio. Uno Nessuno 100 Milan. A me così però mi scoppia la testa, siamo troppi o facciamo pochi figli, io non l'ho capito ancora. Ciao Alino, domenica non puoi mancare, ti aspettiamo sulle tribune dello Stadio Breda, c'è Prosesto Legnano, partita fondamentale. Alino, ti aspettiamo con la maglia. Ci sono signori, io e Mattia saremo al Breda, ho già comunicato questo al presidente Gabriele Albertini. Prosesto Legnano domenica, vuoi venire Leo? Domenica mi trovo qualcos'altro da fare. Eccolo là. Sei veramente. Dai, vieni a vedere. La Prosesto? Prosesto Legnano, noi siamo a quota 51. Ah, no, domenica sono altrove. Mi sono ricordato sì, che ho un impegno. In un'altrove. Sono a Genova, devo andare a Genova domani. Domenica. Niente, l'uomo è un po' confuso. Vai a te. Numero e potenza. Se le culle sono vuote, la nazione invecchia e decade. A noi! Bello, mi piaceva. Volevo un po' più completo, magari. Poteva. Era partito bene. Cos'era? L'Istituto Luce? No? Sì, era un po' un annuncio da Istituto Luce. Allora, c'è questa grande risibile polemica tra Sarri e Le Poste. Sarri, allenatore della Juve, e Le Poste. Le Poste che. Se non volevo essere sotto pressione, mi facevo andare a lavorare alle Poste. Sentilo qua, Sarri, allenatore della Juve, no? Se non volevo essere sotto esame, facevo domande alle Poste. Questo è un lavoro che è fatto sì, soprattutto alla Juventus, quindi. Vabbè, Le Poste italiane hanno iniziato a twittare, a scrivere gli esami, contrariamente a quanto sostiene Sarri, alle Poste ci sono e come. Cioè questa icona, Sarri è stato accusato di aver rappresentato l'essere alle Poste, come dire, il luogo dove nessuno ti tocca, dove sei imbucato. Bisognerebbe capire quanto è luogo comune e quanto è, allora, però, scusami, in passato magari è stato in parte anche così. Scusami. quando Benvenuti al Sud dovevano rappresentare l'icona, l'iconografia del posto fisso, in teoria, dove non si faceva nulla, dove l'hanno ambientato? In una posta. Cioè, nel senso, non è. Adesso va bene. Tutti si sentono e si risentono e si sentono offesi, ma sarà il luogo comune, ma quando uno, no, generazioni e generazioni hanno detto fatti assumere alle poste, significava, mi rendo conto anch'io, il mondo è cambiato, significava vai lì che nessuno ti potrà più mandare via, no? Che non vuol dire vai lì e non lavori, ma vai lì e hai il posto assicurato, mentre Sarri è a rischio, si dice che potrebbe essere mandato via, e dice, beh, ma se volevo stare tranquillo, cioè col posto fisso a vita, andavo alle poste, no? Sì, non è che ha detto se non volevo lavorare. Esatto. Ha detto se non volevo essere sotto pressione. Del resto... Sì, sotto esame. Nel senso esame, non che esame che alle poste ci vanno gli incompetenti. Sotto esame, nel senso a rischio di perdere il posto. Andavo alle poste, che insomma probabilmente licenziano anche alle poste adesso. Però dai, un po' è stato così nel passato. Povero Sarri, come si muove ne pesta una. Speriamo, comunque auguri a Sarri per questa sera. Che dobbiamo dire? Ah, già che stasera c'è Milan-Juventus, c'è? Coppa Italia l'andata. C'è Milan-Juventus? Così pare, sì sì. Ah, vabbè. Giorgio da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Attento, grazie per aver chiamato. Che sta arrivando Manera a Genova. No, cioè, Manera è troppo simpatico, anche se arriva ci fa contento. Anche se arriva, se dovesse. Vabbè, sì, sì, perché io anch'io non ci credo. Vabbè, dai. Riguardo al discorso dei figli, io riesco ad accettare che si metta in discussione la capacità economica della famiglia, perché è evidente, le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti, ce l'abbiamo tutti davanti. Però non si può utilizzare come scusa per non fare figli, perché se due ragazzi intendo ormai fino ai 40 anni, perché ragazzi ormai vanno a oltranza, diventare uomo è una scelta personale, non è più un discorso di età. Se poi vedo i ragazzi che ogni weekend, ragazzi di 30, 35 anni, 40, si fanno la vita, fanno le uscite, spendono comunque, lo dico perché ne conosco parecchi, sì, spendono 50, 100 euro a weekend, a settimana per farsi cazzi, scusi, per farsi cavoli loro. Non è più un discorso di economia. Ecco, quelli secondo Giorgio rientrano. Sì, quello Giorgio sarebbe il famoso. È un discorso di egocentrismo. Narcisismo, esatto, l'egocentrismo. Cioè dire che per carità è tutto legittimo, eh? Cioè dire perché dovrei fare un figlio, rinunciare al weekend, rinunciare agli amici, alla sciata. Ma ve lo dico io perché, avendo un figlio. Seriamente, dico una cosa poetica. Dico una cosa poetica, è vero, perché avere un figlio ti dà una forma di felicità sconosciuta prima, perché è un amore incondizionato. Sei felice quando è felice lui, senza aspettarti niente in cambio. Ed è un'esperienza che poi nella vita non puoi provare in nessun altro tipo di rapporto d'amore. Io condivido totalmente. È chiaro che vuol dire anche fare mega sacrifici, rinunciare a tante cose, però cosa ti dà, quello che si dice con un luogo comune, cosa ti dà in cambio un figlio? Ma è vero, in realtà. È una forma d'amore sconosciuta in altri modi, siamo tutti alla ricerca dell'amore, no? L'amore che cerchiamo per tutta la vita, avere un figlio ti dà la forma più cristallina d'amore. Ho detto una cosa bella, è poetica. Bello. Anche avere due figli. Ecco, già lì diventa più faticoso. Ecco, no, invece io ne ho due. Però quello che si vuol dire qui, e lo ribadisco, è che tutti coloro che ci chiamano e ci dicono il motivo per cui non si fanno figli, hanno tutti ragione, perché le ragioni sono molteplici, sono diverse e valgono tutte. È proprio una cosa molto personale. La ragione di Giorgio vale per Giorgio e non varrà per un altro, ma è una ragione che, siccome è Giorgio che deve fare un figlio, e soprattutto amici... è il figlio quando ha 14 anni, sì, lo puoi mandare a lavorare, come anche lavori anni pesanti, ma no, e ti può aiutare a mantenere la famiglia. Tu puoi stare in panciole tutto il giorno sulla tua hamaca e mandi il bambino a fare lavori di metallurgia sulla e a guadagnare i soldi per poi tu puoi bere della birra e rimanere a casa in panciole. Panciole, vabbè. C'è Dario da Varese, buongiorno. Buongiorno. Sì, eccoci. Beh, più che da Varese, dalla provincia di Varese. Va bene, dai. Sì, da Luino, un paese sul Lago Maggiore che è stato recentemente frastornato da un nubi fragio, o tempesta di vento, ma niente di tragico. Niente, siccome io alla mia età ormai ogni tanto soffro un po' di insonnia e passo il tempo a leggere di notte, no? Ho proprio ritirato fuori l'altro giorno un libro che è Lo zio Gustavo e l'amore di Tom Antongini, il quale Antongini fu il segretario di D'Annunzio e poi in tale età scrisse libri. E mi ha colpito il fatto che il libro uscito nel 1959 parla esattamente in un suo capitolo di questi problemi di oggi. Cioè, perché non si fanno i figli, se ne fanno pochi, più se ne va avanti meno se ne faranno, dice lui. Proprio ha previsto esattamente quello che sta succedendo. Qual era la spiegazione? E niente, che la gente una volta i figli li faceva non per scelta etica, perché li voleva prima di tutto perché non esistevano gli anticoncezionali. La gente faceva l'atto sessuale temendo di fare peccato se non era determinato per fare figli, e poi oppure in certi casi addirittura sceglieva di farli, come dicevate giustamente anche voi, perché poi gli servivano come braccia, specie in campagna, perché è così. Per cui voglio dire, cioè lui non lo considererei così a titolo puramente. Sì, ma è interessante. Già nel 1959. Allora, ripeto, si chiama Lo zio Gustavo e l'amore. Lo zio Gustavo e Antongini. Va bene. Ecco, io per esempio, figli ne ho avuti due, un maschio e una femmina, ognuno di loro ha una figlia. Sono sistemati tutti bene nella vita, anche se hanno avuto buona iniziativa, hanno saputo come sistemarsi. Va bene, niente, era solo questo libro che potreste citare in qualche caso, che ha delle l'ha citato lei Dario. Poi ci sono anche molti di quelli che dicono se non si fanno figli è un bene, perché siamo in tanti sulla terra, le risorse, cioè ci sono 800.000 sfaccettature, vanno bene tutte e sono giuste tutte, e nessuna può essere applicata come teoria generale su tutto. Bisogna usare il profilattico di lino. Lino. Così il pisello sta bello fresco durante il rapporto. Fresco, sì. Allora, meno male che non è detto questo con l'ospite che sta per arrivare dopo il traffico. Se sei un imprenditore o un libero professionista, Fatture in Cloud è il software che fa per te. Fatture in Cloud è molto più che fatture elettroniche e ti permette di gestire anche i preventivi, registrare gli acquisti, mandare i solleciti in automatico e molto altro, in qualunque situazione, anche dallo smartphone. E dando accesso al tuo commercialista, risparmi un mucchio di tempo. Registrati su fattureincloud.it. Ha un prezzo piccolo piccolo e in più è Team System. Provalo gratis e semplificati la vita. Uno, nessuno, 100 Milan. Viva i contadini che fanno i figli e hanno i valori. Scusa Milan, scusa Manera, io ho 25 anni. Pensare di fare un figlio in questo mondo dove siamo il 14 febbraio, 13 febbraio, e sono 15 gradi, cioè tra 10 anni che cosa facciamo? Dove andiamo a vivere? Può sembrare un atto di schiavitù, ma farsi passare gli attrezzi una volta era un modo per insegnare all'apprendista scegliere l'attrezzo giusto al momento giusto. Anzi, molto spesso non si chiedeva passami il martello, eri tu che dovevi capire se quel momento serviva il martello. Sì, l'apprendista, però vedi, questo era un figlio, un povero figlio che voleva fare, Leonardo Manera nello specifico, che voleva andare a fare il bagno nel lago, e il signor Luciano Bonetti, perché Manera è un nome d'arte, il signor Luciano lo obbligava a star lì con i martelli per ore e ore. C'era un altro ascoltatore che ti ha detto anche a me è capitato, io prendevo pure le botte, perché vabbè, insomma. Allora signori, 10-20 minuti, adesso sapete che Leonardo Manera ha questa battuta, dire l'amore finisce sempre comunque, perché sposarsi, non vogliamo mettere in celia un tema molto molto serio, tanto che c'era grande attesa per quello che il Papa doveva dire ieri, ha detto ieri dopo il sinodo sull'Amazzonia, e forse c'è una grande delusione da parte di chi si aspettava una sorta di apertura verso l'ordinazione di preti, diaconi, sposati. Non so se c'è questa delusione in Giuseppe Serrone, che è prete e portavoce del movimento Sacerdoti Sposati. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori. E dobbiamo spiegare che è prete a tutti gli effetti, perché ci spiegava, cioè, quando uno è prete, prete rimane, però lei è sposato. Sì, l'ordinazione valida rimane per sempre, è un sacramento. Io sono sposato dal 2002, ho chiesto la dispensa dagli obblighi del celibato, sono stato autorizzato, un percorso previsto dal diritto canonico, di fatto si rimane sacerdoti, però non si può esercitare, siccome ha detto lei c'erano tante attese. È deluso. Però, ma diciamo, già c'erano stati dei segni premonitori, quindi non è che era attesa questo, se non vi aspettavate nient'altro di quello che è successo, insomma, ecco. Sono due cose differenti, cioè la questione del celibato è una cosa, la questione della riammissione al ministero dei preti ordinati è un'altra cosa. Sulla questione del celibato non ci aspettavamo nulla, perché attualmente viene considerata ancora un valore. Papa Francesco si era già espresso negativamente in tal senso, però visto la crisi numerica del sacerdozio, visto la mancanza di preti, ci auspicavamo una riammissione al ministero di noi preti. Cioè lei voleva, come rappresentante, dire almeno ridateci la possibilità, Chiesa, Vaticano, di poter fare messa, ecco, di poter dire messa. Come è stato fatto con i pastori anglicani. Noi abbiamo già nella Chiesa Cattolica Romana centinaia di sacerdoti anglicani che sono stati riammessi. Però cosa devo dire? Don Giuseppe, Giuseppe. Un prete per sempre, sì, però mi chiami Giuseppe. No, però Giuseppe, la questione è questa, cioè se avesse fatto questa apertura con la riammissione ai sacramenti, sarebbe stato un grande passo verso il sacerdozio dei preti, perché a quel punto la via sua, di Giuseppe, poteva essere la via di centinaia e migliaia di altri preti, no? Però il Papa Francesco non ha chiuso la possibilità, infatti ha detto fra le righe, quella di ieri, 12 febbraio, è stata la presentazione del documento finale del Sinodo, e ha detto che rimanda interamente a tutto quello che è stato scritto in quel testo, quindi non ci sono chiusure. Quindi secondo me ha rimandato la questione. Ma rimandato a chi? Al prossimo Papa? Cioè, perché... Sicuramente sì, non se l'è sentita di affrontare questo tema. Quindi adesso abbiamo un Papa emerito, alcuni auspicano le dimissioni del Papa, pensano che lui si dovrebbe dimettere, ma non lo farà. Ma chi? Francesco dice? Ne abbiamo già avuti di Papa che si sono dimessi, il secondo consecutivo che si dimette. Celestino è Benedetto XVI. E lei auspica che si dimetta anche Francesco? No, noi non ci auguriamo questo, però certamente lui si trova in una situazione un po' particolare. Sta vivendo sotto mira di attacchi dei conservatori. Sì, perché si parla di molti attacchi. Attacchi dei conservatori, però alla fine anche Papa Bergoglio non ha appunto fatto questa apertura. Cioè, in questo caso i conservatori saranno molto contenti, no? Sì, ma non era in gioco questo. Nel documento finale non era in gioco questo, era in gioco la ordinazione dei diaconi sposati, che in determinate zone, che poi questa possibilità poteva essere estesa a tutta la Chiesa, potevano venire ordinati sacerdoti. Comunque lui ha ribadito che per i sacramenti è fondamentale la figura del sacerdozio, quindi in tal senso potrebbe essere un'apertura verso i preti sposati. Sì, in realtà ha scelto la via del silenzio, cioè non ha detto nulla. Non ha detto nulla, anche se in alcuni viaggi, per esempio quando rientra con l'aereo da alcuni viaggi, si è espresso dicendo che lui non cambierà la questione del celibato, però ha fatto dei gesti parlanti. Per esempio l'ultimo venerdì di Quaresima dell'anno 90 è andato a trovare a Roma 8 famiglie di sacerdoti sposati. Cioè, ma lei quando si è sposato? Io mi sono sposato nel 2002. E come va il matrimonio? C'è un po' di crisi adesso, un po' di difficoltà. Tutto a posto. Per Leonardo Manera l'amore finisce sempre. Lei non teme di aver fatto una scelta comunque importante di vita, e poi si sa che normalmente i matrimoni finiscono, che anche il suo possa andare un po' alla deriva? No, non ci ho pensato per nulla, perché quando l'ho fatto credo ancora in quello che ho fatto, e non bisogna pentirsi mai di una cosa se quando l'hai fatto stavi bene. Però questo è un tema interessante, Giuseppe, non sì. finirà così. Leonardo Manera è un provocatore, si sa, non finirà così. Se vivrete d'amore e d'accordo per sempre con la sua sposa, che si chiama? Mia moglie si chiama Albana. Albana, perfetto. Io dico questo, secondo me, cioè, è contemplabile l'idea della, di una separazione per lei? No, proprio, cioè, no, per me no, per me non credo, però il futuro non lo sa nessuno. Ma vediamo che credo. Albana si stanchi, che può succedere. In quel caso lei potrebbe tornare, a suo parere, a dire messa? Se Albana se ne vada, se non voglio portarle male, no, non succederà. No, no, in no, quanto La normativa canonica non prevede questo, non prevede questo, soltanto il nel caso di morte del coniuge, certo, allora può avvenire, certo, questo, ma la normativa canonica attuale non prevede questo percorso. Ma una curiosità, quanti sono i preti sposati in Italia? Più o meno, ma i dati ufficiali sono segregati, perché non li diffondono, però alcune stime dei lei è portavoce del movimento, sono circa quelli che hanno fatto un percorso di dimissioni, sono circa 8.000 in 8.000. Italia. Ma esistono, no, scusa, avevo questa curiosità, esiste anche qualche prete sposato e poi separato? Sì, mi pare che ci sono dei è casi. È successo. Sì. Beh, in quel caso uno non può essere più prete, cioè decade come prete, no? Almeno in quel ma caso comunque sì. Comunque non sono esperto di questa cosa, non intervengo perché non conosco la situazione. Ma invece, a suo parere, ci sono molti preti che hanno delle relazioni stabili pur non essendo sposati? Ma dati ufficiali non ce ne sono. Ma così, però, una sua opinione, persone che ha conosciuto? No, io non ho conosciuti. Però a quanto pare? Quelli che ho sentito dire, per esempio, i casi più famosi sono quelli di Don Sante Sguotti, che ha rivelato in diretta di avere un figlio, oppure Milingo, che aveva lui stesso. Ma che fine ha fatto? Me lo chiedo quasi tutti i giorni, che fine ha fatto Milingo? Hai dei problemi se tutti i giorni ti chiedi questa cosa. No, ti giuro, perché un tempo, vi ricordate, era comparso in Sud Corea, cioè, sì, Monsignor Milingo. Ma dov'è? Adesso ci avrà 90 anni. La questione è rientrata. Credo che lui si sia ritirato a vita privata, anche perché ha una novantina di anni. Sì. Ma dove sta fisicamente? Lei non lo sa. Alcuni dicono che sia in Africa, o altri dicono che sia in Corea. Stupendo, cioè, io sono curiosissimo. Da giornalista, sì, dico, sì, ho capito. Dove sia Monsignor Milingo? L'ultima venuta in Italia è stata nel 2016, da allora in poi non fa più niente. Non fa più niente. Va bene, Giuseppe Serrone, noi insomma la ringraziamo, ripeto, prete, prego, portavoce del Movimento Sacerdoti Sposati, tutti i giornali raccontano della svolta mancata, però in realtà ci ha spiegato Giuseppe che non è che era attesa una svolta, non ci sono stati degli sviluppi clamorosi, ci si attendeva in realtà questa non apertura da parte di Bergoglio. Sai, però, che ha trovato un volantino qui sotto? Ah sì? Sì, c'era scritto: soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani, non ti si mette in moto la macchina, perdi i capelli, hai il lavandino che perde, nuoti male in piscina, allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza, l'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90. Non nuoti in piscina, che non sai nuotare, ma... Elisir dottor Meazza, 19,90. Sì. 19,90, poi lucra con questa idea del 19,90, per cui in realtà spendi 20 euro di fatto. E poi risolve tutto, no? Dal nuotare male in piscina, non ti si mette in moto, guarda, veramente. Ma cos'è l'elisir? Cos'è uno sciroppo? È una specie di sciroppo, sì. L'elisir del dottor Meazza. Tu lo bevi e la macchina... Sì, sì. È così che vuole millantare qui il signor Meazza. Cioè non lo, so. Lo metti nella macchina. No, lo bevi tu. Lo bevi, giri la macchina, giri la chiave e via. Tutto, risolve tutto l'elisir. Anche... lui vuole millantare questa cosa con le persone credulone. 19,90. C'era una fila. Ho notato una fila in una porticina laterale qui al sole. Una fila di alcune vecchiettine, persone, cosa non giovani. Si fa. Vabbè. Vabbè, oh, la borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma come si può fare dei figli che hanno già un debito di 50.000 euro appena nati, con un governo che non fa niente, non, senza futuro? Ma dovremmo categorizzarli come fa Nicoletti, no? Questo è nel gruppo no al futuro. Vabbè. Milan, vallo a chiedere ai portalettere se hanno il posto fisso alle poste. No, vediamo cosa ti rispondono. Ma non ha parlato di posto fisso. Era... No, beh, sì, l'idea era... Sarri ha parlato di lavoro senza troppe pressioni. Ecco, no, questo no, ha detto no, Sarri. L'idea, però, è se cioè, il concetto di Sarri era se volevo un luogo dove non venivo mai messo in discussione, andavo alle poste. Come dire, una volta che entri alle poste, nessuno ti schioda più da lì. Effettivamente era, è un luogo comune, un po' un tempo era così, adesso no. C'è da dire che insomma questa storia dei figli. Carla Rocchi, buongiorno. Per esempio, Carla Rocchi, voglio sapere da Carla come stai intanto. Io sto bene, cari, bene. E voi come state? Bene, bene. Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Ma figli tu ne hai? Scusa, ci facciamo i fatti tuoi, non è che... Io ho 7 gatti. Vabbè. No, sai che ecco, lei la categorizziamo in quelli meglio, ecco. Il cane, il gatto di un figlio. No, no, cioè. No, no, no. È che secondo me si nasce genitori o si nasce zii. Sono due tipologie di persone. I questo genitori essere, educano. Sì, io gli zii viziano. Io siccome sono famosa per viziare, tollerare, capire, non rompere le scatole, eccetera, sto nel mio ruolo. E il tipo dice no, veri, reali, amatissimi. Io avrei fatto dei figli pessimi. Pessimo. No, ma no, cioè, no, l'avrei no, allevati malissimo, no. Ma io sono consapevole dei miei limiti. Non dire così. Allora, noi Carla Rocchi ogni tanto la chiamiamo, tanto è una bellissima voce, ha sempre degli elementi di interesse, di discussione. Poi ogni tanto quando incocciamo, e qui devo svelare, è stato soprattutto Lorenzo Nespoli in redazione che ieri rideva quando ha letto questa notizia, ha detto chiamiamo Carla. La notizia è questa: Alto Adige prende ammazzate un gallo cedrone, assolto per legittima difesa dal giudice. Era un gallo cedrone che aveva attaccato il figlio di uno mentre sciava. E da chi è partita la denuncia, tra l'altro? Non lo so, questo adesso... Che vedevo lì. Io non entro in questo caso, siccome su questo caso si è espresso un giudice per evitare di essere incarcerata, non entro nel caso specifico, ma dico in generale. Quanti casi di aggressione di gallo cedrone voi conoscete? Ecco, su questo devo dire ci siamo sbizzarriti, è pieno di video. Oh, questo gallo cedrone, ragazzi, è aggressivo. Ma di, cioè, ma di video, anche se tu entri in un pollaio, se c'è un'oca o c'è un gallo, ti corrono incontro. No, no, ma tu qua fai così, aggressioni da gallo cedrone. C'è gente che passa pare in bici. Pare che sia aggressivo gallo cedrone, come è come animale. Il cigno, è come l'oca. Cioè, se passi da quelle parti e c'è un gallo cedrone, si incazza. Cioè, ma se tu al gallo cedrone gli fai show e se stai sciando con i bastoncini gli dici gallo allontanati, ma il gallo cedrone che fa? Ti sfida a duello, tira fuori una pistola, che ne so io. Tira fuori una pistola, no, effettivamente su questo non si è ancora visto, però è lì, allarga le piume, ti vuole beccare, cioè non desiste il gallo cedrone. Ma ho capito che non desiste, ma tu ingaggi una singola attenzione col gallo e col bastoncino se stai sciando gli dici gallo tornatene a casa tua, che poi magari quel posto sarebbe anche casa del gallo se vogliamo proprio dirla tutta. Ecco appunto, ma sei tu che vai a rompere le scatole al gallo, effettivamente. È pazienza che dobbiamo fare, va bene così. Quindi no, è stato assolto dall'accusa di maltrattamento di animali. Questo beh, certo, non l'ha maltrattato, l'ha proprio ammazzato, quindi tecnicamente la sentenza è impeccabile. Sì, tra l'altro, specie protetta il gallo cedrone, ricordiamo. Ma io dico questo, adesso parlandone seriamente, ma può essere mai una minaccia un gallo cedrone da parte di una persona adulta che c'ha anche i bastoncini da sci con cui difendersi? Sì. Io però nella sentenza specifica non c'entra. Adesso ho avuto notizia che adesso le polizze assicurative sono cresciute tutte perché c'è dentro il rischio da gallo cedrone. Pagheremo un sacco di soldi per questa storia. C'è il bonus malus per questa possibilità di essere aggrediti dai galli cedroni si aggiunge e diventa ancora più rischioso sciare, perché oltre al rischio dello sci che c'è già in sé, l'uomo stava sciando in Val Gardena insieme al figlio quando quest'ultimo è stato attaccato dal gallo, il ragazzo è caduto e il padre è intervenuto in sua difesa, è stato aggredito a sua volta nel tentativo di allontanare l'animale utilizzando i bastoncini da sci, lo aveva ferito tanto che aveva perso molto sangue al punto da far presumere potesse essere morto. Ma ragazzi, cioè, chiederemo al gallo, adesso sarà ricoverato da qualche parte, che vi devo dire. Stupendi. Peraltro, i versi dell'uccello avevano attirato l'attenzione di un gruppo di persone che pranzavano in un chiosco e che erano intervenute in difesa dell'animale. Attenzione, e queste persone hanno denunciato l'uomo alla forestale, quindi sono queste persone che erano lì, che hanno difeso l'animale, insomma, questo è dato di fatto. E che guarda, si esprime il giudice definitivo, però i nostri pareri ci li possiamo formulare, sì, magari tenere in testa. Com'è? Le sentenze si rispettano, ma si discutono. No, non si rispettano, si eseguono, si fa tutto quello che si vuole. Va bene, sei un po' felice che questo coronavirus sia nato in qualche modo, qualcuno dice, saltando dall'animale selvatico, fatto il salto di specie, dai pipistrelli, pangolini, per cui felice nel senso di dire, vedete cari uomini e donne cosa combinate se andate a uccidere dei pangolini o dei pipistrelli? Ma sai che c'è? Tu sei mai stato in Cina, uno di questi che si chiamano i mercati umidi? No, io sono andata due volte in Cina, perché la prima ho detto avrò visto male, ci sono tornata. E devo dirti, adesso parlandone fuori di scherzo, se uno mangia, noi, allora, premesso che noi facciamo al chiuso tutti gli orrori che gli altri fanno all'aperto, non è una giustificazione. Sì. Ma quando tu mangi un animale, tu non sai mai che patologia può avere. Sì, ma adesso facciamo, metti che io mi voglia mangiare Lorenzo Nespoli, per esempio. Se Lorenzo Nespoli ha l'epatite, io mi mangio Lorenzo e la sua epatite. Sì. Se io mi mangio un pangolino o mi mangio un pipistrello, sì, io mangio quell'animale e le sue malattie. Sì. Ieri mi ha scritto uno dicendo: l'ho mangiato in Madagascar ai ferri, il pipistrello. Ma perché sai che c'è? Il mondo è pieno di gente. Allora, questi sono i nuovi viaggiatori. Una volta chi viaggiava si informava, vedeva, guardava, godeva del viaggio. Adesso abbiamo dei viaggiatori che vanno a mangiare e tornano per dire ho mangiato, poi pensano di essere spiritosi, l'hanno fatto legioni di persone prima di loro, ho mangiato il coccodrillo, ho mangiato il rinoceronte, ho mangiato quello, gli manca solo di mangiarsi la suocera. E continuando a mangiare qualunque cosa, senza nessun controllo, senza nessun criterio, mangiano, prendono tutto. Ti becchi questo. Ti becchi quello che c'è. Quindi dici contenta no, però sei consapevole di quello che fai. Contenta no, ma francamente non è che sia una sorta. Guarda, adesso a parte tutto, ma se uno vede che cosa c'è in questi mercati, ti meravigli che siano ancora tutti vivi. Va bene, Carla, ti salutiamo alla grande. Guarda qua, arriva la foto di uno che prende in braccio. Ma stupendo, guarda un ascoltatore, che cos'ha in braccio? Un bel gallo cedrone. Eccolo qua, il gallo cedrone si prende in braccio. Scrive un ascoltatore. Un pensiero, una prece per il gallo cedrone. Sì, sì, ti saluto, amici. Grazie, miei. Carla. Ciao. Allora, arriva qua un messaggio che ci introduce a quello che succederà dopo il traffico. Ma Manera, tu per andare a Genova ti fermerai a Masone? Ci scrive Enzo da Torino. Questa è un'anticipazione non richiesta, ma assolutamente in tema. Diciamo. Guarda, ti fermerai a Masone. Perché che succede adesso dopo il traffico? Perché è arrivato qui Stefano Melchiorre, maestro di chitarra. Grande, e insieme Stefano. A lui faremo una canzone proprio dedicata Amazone. Beh, è bello perché Stefano ha un solo microfono, quindi o parla o parla la sua chitarra. Adesso abbassati, ingobbisciti e salutaci. Ciao a tutti. Vuoi lanciare il traffico? Fai un giro di chitarra per il traffico. Fai un giro di chitarra per il traffico. Il traffico. Acquisto, noleggio. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri ed acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Lancia Y è tua da 179 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 29 febbraio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo 4.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, Carla Rocchi è un mito, chiamatela più spesso, Serena, ma noi la chiamiamo tante volte, insomma, la mitica Carla Rocchi. Allora, tu e Masone, un rapporto che un giorno dovrete anche poi... Masone, ne parlavamo molto l'anno scorso quando si diceva che Masone è un luogo dove c'è sempre nebbia, dove c'è sempre pioggia. Lo dicevi tu. Prima che ci sia la galleria, oltre la quale si vede il mare della Liguria e cambia tutto, dopo la galleria cambia il mondo, diceva Fabio Concato, no? In Guido Piano. E quindi Masone è un luogo così, insomma, non sempre fortunato, mitologico e non sempre di frontiera, non sempre fortunato dal punto di vista del clima. E allora a questa canzone, a questo luogo, pensate di dedicare una canzone. Ah, attenzione, c'è cioè una canzone con Stefano Melchiorre. Eccoci qua. Prego. Prego, maestro Melchiorre. Questa è l'introduzione di chitarra. Era il rapporto ormai concluso, ormai finito. Senza più amore, senza un sogno condiviso. Si trascinava stancamente in modo grigio, senza parole, in un silenzio senza scampo. Ma ci voleva il coraggio di qualcuno. E poi lasciarsi, e non è un gioco da ragazzi. Bisogna scegliere il posto più indicato e separarsi senza rimpiangere il passato. Lasciarsi Amazone, lasciarsi Amazone è il luogo migliore per far finire una storia d'amore. Lasciarsi Amazone, lasciarsi Amazone in mezzo alla nebbia, sperando in un giorno, in un luogo migliore. Perché in tanti luoghi si può stare soli, in tanti luoghi si può anche soffrire, però Amazone è il posto migliore per lasciarsi e morire. Lasciarsi Amazone, lasciarsi Amazone è il luogo migliore per far finire una storia d'amore. Lasciarsi Amazone, lasciarsi Amazone in mezzo alla nebbia, sperando in un giorno, in un luogo migliore. Perché in tanti luoghi si può stare soli, in tanti luoghi si può anche soffrire, però Amazone è il posto migliore per lasciarsi e morire. No, la prego, maestro, vada avanti con la chitarra. Beh, noi lasciarsi Amazone. Salutiamo tutti gli abitanti Amazone, di Amazone, a cominciare dal primo cittadino, il sindaco, per far finire una storia d'amore. Lasciarsi Amazone. Che ti tristezza. Ricordi che aveva detto anche a Fabio Treves, quando qualora l'avessi fatta, di venire qui con l'armonica, e lo invitiamo. Poi lo chiamerò Fabio Treves per venire insieme a noi. Assolutamente, assolutamente. Fabio Treves è venuto a trovarci, il Puma di Lambrate. Ricordiamo il Puma di... Tu invece, maestro Melchiorre, hai qualche soprannome? Cioè... Ma io dal 95 sono diventato ciclosonico. Cosa sei diventato? Il ciclosonico. Il ciclosonico. Vale a dire, ragazzi, attenzione. Alza il microfono, portatelo. Adesso perché o hai il microfono per perfetto, la chitarra. Quindi dicevano ciclosonico. Ma uscì una sera dopo aver suonato con degli amici. Sì. Avevamo tutti dei soprannomi abbastanza assurdi. E non mi ricordo dove uscì questa cosa. Ciclosonico vi saluta. No, ciclosonico, cosa hai detto? Ciclosonico. E da lì in poi è rimasto sto scherzo del ciclosonico. Sì, secondo me, insomma, sono quelle pastigliette un po' bianche che fanno questi. Che fanno quegli effetti, sai, no, fanno stare non benissimo. Era una di quelle serate. I musicisti quando... molti fanno usi di stupefacenti. Eccolo là, no, va bene, non volevo adesso approfondire. Non è il caso del maestro Stefano Melchiorre. Non è. Io ho fatto una battuta e Leonardo Manera ci mette il carico da 90. No, lo dico magari a un fratello Stefano, no? Cioè tuo fratello. Ne ho uno davvero. Ecco, ne ho uno davvero. Lo so che vive vicino a Piacenza. Volevo far sapere probabilmente che tu fai uso di stupefacenti. Ma no, ma non è vero. Ma adesso, ma porca miseria. Ma è venuto qua, tranquillo. È venuto con la chitarra, è venuto per anche supportarti e adesso deve essere massacrato in questi e quando pochi esco minuti. Finisco in rehab subito. Sì, esatto. Comunque guarda, è arrivato, non ho paura a fare play perché è un video, ma è un video che Masone 11 maggio 2019. Ti pregherei di descrivere questa foto, caro Leonardo. C'è un bianco. Nebbia, è nebbia, nebbia. È la nebbia di Masone. Capito Stefano, questa è Masone, la bruma, la shigera, come direbbero a Milano, ma non dicono. Va bene, ti dicono, primo posto a Sanremo, presenta il maestro... No, com'è? Leonardo Bonetti Manera, alla chitarra il maestro Stefano Melchiorre. Dirige il maestro Stefano Melchiorre, pausa per l'inchino. Canta Leonardo Manera, lasciarsi a Masone. Masone. Va bene, ho appena mandato un messaggio alla mia ragazza che la porterò nel weekend a Masone. A Masone. Stefano da Udine, no! No, Stefano! No! Tra l'altro, per lasciarsi, Masone è anche l'ideale per un altro motivo, oltre al clima uggioso, perché c'è il labirinto a Masone. Quindi, c'è il labirinto, sì, è famoso il labirinto di Masone, è un labirinto dove ti puoi perdere, quindi ci si può lasciare lì, uno va da una parte, sì, l'altro dall'altra, e ci si lascia nel labirinto perché non ci si trova più. Stupendo, stupendo. Non c'è niente da ridere, è una delle canzoni più tristi che abbia sentito. arriva facciamo il ritornello. Lasciarsi a Masone, lasciarsi a Masone è il luogo migliore per far finire una storia d'amore. Lasciarsi a Masone, lasciarsi a Masone, in mezzo alla nebbia sperando in un giorno in un luogo migliore. Perché in tanti luoghi si può stare soli, in tanti luoghi si può anche soffrire, però Masone è il posto migliore per lasciarsi e morire. Va bene, signori, nella giornata mondiale della radio, perché oggi è la giornata mondiale della radio, noi celebriamo questa giornata mondiale della radio con il maestro Stefano Melchiorre alla chitarra e Leonardo Bonetti Manera a Sanremo, no, a Masone, vabbè, insomma, quella roba lì. Il titolo ovviamente è Lasciarsi a Masone, questo l'avevamo intuito. Aspettiamo Fabio Treves. Va bene, grazie Stefano per essere venuto a trovarci, grazie a Leonardo Canterino, e noi ci troviamo domani. Uno, nessuno, 100.000.